25. Fare il portinaio non era poi così male, pensò Lester. Lavoro di merda, come tanti, ma uno straccio di mancia lo rimediavi sempre. Adesso, con i carbonai scioperati da 2 settimane, qualche penny d'avanzo poteva farti comodo. C'è differenza tra pagare uno per portarti a casa le chicche e doversela fare fino ai dock con il carriolino, andata, ritorno e schiena in cocci. Uno straccio di mancia, sì, anche nel buco di culo più lezzo della città, l'ospedale di Santa Maria di Betlemme, per tutti Bedlam, il posto dei matti. Lester si vantava d'averla inventata lui, la mancia di Betlam, ma non era vero un cazzo. Il brevetto spettava al suo vecchio padrone, chiavatore sopraffino, che aveva infornato la pagnotta a una lavandaia di Saint-Gilles. Lester s'era preso la colpa e Lord Garfield l'aveva dovuto licenziare, come si fa coi servi che ciulano tra loro. In cambio gli aveva trovato quel lavoro da custode di villa a custode dei matti, che detta così era un'inculata a sonagli, ma poi era saltata fuori la storia della mancia, che cioè a Londra c'erano un sacco di madamine milordoni che morivano dalla voglia di vedere i maniaci, sentirli urlare e soprattutto studiarseli da nudi. Tra questi sciroccati, manco a dirlo, c'era lo stesso Lord Garfield, che in cambio dell'ingresso gratuito, vita natural durante, avrebbe portato orde di amici pronti a sborsare il dengo. Pochi mesi dopo il Lord era schiattato, così a Lester non era rimasto che allargare il giro. Ormai raccoglieva le prenotazioni, regolava le visite per non dare nell'occhio, intascava la mancia neanche fosse a teatro. Una carrozza in attesa si fermò davanti al cancello. Scesero in 5 e fecero il segno di avvicinarsi. Lester si buttò il pastrano sulle spalle e imboccò il viale d'ingresso, ridotto a un sentiero dall'erba che lo assediava. 4 merli e una passerina. Loro parrucche e bottoni dorati, lei un monte di capelli che stava su per miracolo e in cima una cuffietta minuscola. Se era gente col grano, di certo spendeva poco per sistemarsi le zanne. I mezzi sorrisi che accolsero Lester avrebbero scacciato uno stormo di pipistrelli. «Siamo qui per i matti!» disse l'elegante del gruppo, appoggiato al bastone, con aria saputa. «Il posto è quello, signore!» «Questo lo so da me, caro, e so anche di un portiere che organizza visite scientifiche nell'ospedale, non è così?» «L'ho sentito dire, ma credo ci sia bisogno di fissare un orario d'entrata, sapete? E di farsi introdurre dai membri anziani del club.» «Capisco!» sghignazzò quello, mostrando gli zughi come fossero perle. «E ditemi, pensate che una guinea possa bastare?» «Una guinea, merda santa!» «Credo proprio di sì, signore! Prego, da questa parte!» «Un posto da paura!» pensò Neil. «Se davvero i milord scoreggini si divertivano all'occhiare là dentro, erano più sbroccati loro dei matti nelle gabbie!» «Meglio sbrigarsela in fretta, Dio scannato, e spera che nella bolgia non ne scappi fuori qualcuno, che questi, se ti mordono, ti attaccano la schifezza.» Il portinaio faceva da guida in mezzo a una stanza gigante, simile ai baracconi di Spitalfield, dove aveva lavorato da Martino. Ma qui, invece che telai, c'erano griglie. Griglie di ferro a destra, griglie a sinistra, e dietro facce, biffe di tutti i tipi, bianche come fantasmi o sguanate di croste, grinzose o insaccate di ciccia. E poi gli occhi, pisoloni e incarogniti, strabici o pallati, trulli che sgolano i peggio strilli o mugugnano per i cazzi loro, bavosi o col ghigno, braccia in croce o sventolate, granfie che fanno ciao e mandano vaffanculo, gnucche che dicono sì, che dicono no, che sballonzolano solo e non dicono una fava, zampe che ballano e calciano, in ginocchio, in piedi, nasi che smoccolano e annusano, culi al vento e sotto coperta, cazzi sguainati e cazzi a riposo, da asino e da nano, da Sodoma e da ciondoli. «Un posto da paura. Cosa ci trovano i milordini?» si domandò Neil. «Ti fai un giro intorno all'abbazia e ne trovi quanti ne vuoi di sti malcichi fuori di brocca. Presi uno alla volta, ti fai pure delle ghigne. Non dico di no. Ce n'è uno che basta gli dici un nome da passera e quello zac si cala la brega e ce l'ha già in tiro che puoi infilarci le ciambelle. Ma tutti insieme no. Così ammucchiati fanno scago. Altro che, sembra l'inferno dei morti ammazzati. Metti che viene giù una griglia. Ti saluto, hai finito di ghignare.» A robe Cole deve essergli venuto un crampo a forza di tenere le chiappe strette, pensò Neil. O magari no. Magari tra scimuniti c'è rispetto. Roba che non si fanno male tra loro, tipo così. Non che siano scimuniti robe Cole, ma con gli altri, gli scimuniti coi fiocchi, mica lo sanno. Basta che stai dalla parte giusta della griglia e più che sbavarti la spalla o pisciarti nei piedi non fanno. Invece se stai di qua, metti che all'improvviso viene giù tutto, meglio sbrigarsela in fretta. Altro che pigliare fuori Robbe Cole e darsela di scuffia per la campagna. Che cazzo ci trovano i milordini del Sukashir? Cominciano i giochi, pensò Dave l'imperatore. Aveva l'occhiato i malcichi dentro il gabbione, in fondo, sul lato destro. Signori, signora, se siamo qui oggi è per riparare a un'odiosa ingiustizia. Una mossa repentina e s'era voltato verso i Soma con aria sguanosa e sborona. Stava di fianco all'anfitrione che lo locchiava con una biffa perplessa. L'imperatore, ancora per il momento nelle palandre di un poldo piano di plata, con tanto di parrucca e ammennicoli assortiti, dava inizio al suo numero con i Soma di ganga, come sempre all'oscuro dei particolari piccanti. «Sì, miei cari!» appoggiò la gran fia destra sopra la spalla del portinaio. «Una terribile, tragica ingiustizia! Di certo i miei amici staranno pensando ai due nostri fratelli Robin Cole, forse i migliori tra noi, che giacciono imprigionati in questa valle di atroci sofferenze. E come dare al loro torto?» strinse forte la presa sulla groppa del portiere. Rob e Cole, due sinceri patrioti, giudicati folli e rinchiusi per aver osato difendere la dignità propria e del popolo di cui sono parte. Folli, pazze, picchiatelli, scardinati, mentecatti, sbroccati, sciroccati, depravati, dementi, ecco cosa sono. Il molto che lo stolto non comprende, egli lo chiama follia. Ecco la verità. È per questa verità che siamo qui oggi. Fece un profondo inchino davanti a Sgancia la Mancia Lester, rinscemito. Anche i Soma non campavano un granché. Terminò la pausa d'attore consumato. Troppo facile, troppo comodo sarebbe per noi reclamare i nostri amati fratelli alle nostre cure. Riprenderci coloro che ci sono stati sottratti con la forza e il sopruso. Giusto, sacrosanto, ma poca cosa. Un compito più grande ci attende oggi. A quel punto il povero Lester l'aveva capito che era il caso di intervenire, che il polder era strano e sprolava. Sprolava e da qualche parte doveva pure andare a parare. Gli venne un gran scago. Vuoi vedere che va tutto a puttane? Il poldo non si fermava più. Con chi cazzo ce l'aveva? Signori, le leggi e le consuetudini concedono ad alcuni uomini il diritto di valutare lo spirito umano. Noi non stiamo qui a questionare sul valore della vostra scienza o piagnucolare sulle vostre scelte, se sono giuste oppure no. Invece, noi ci leviamo contro il diritto attribuito agli onest'uomini di decidere l'incarcerazione a vita negli ospedali, luoghi che non sono altro se non delle spaventevoli prigioni. Questo non lo si può mica tollerare. I pazzi sono le vittime per eccellenza, sono uomini questi qua. Su questi uomini, dovete riconoscerlo, non avete altro vantaggio che la forza. È per ribaltare questo vantaggio che siamo qui noi. Mio caro, allunga le chiavi dei gabbioni. Tirò il pomo che faceva da manico al bastone e ne strasse una lama, lunga e sottile, che puntò al collo di Lester e spalancò il truglio pieno di zughi dorati, affettando stupore. «Che razza di scardinato!» pensò Betty, detta la mangiona, stretta a fatica dentro i panni di donna dai solidi natali. Nonostante ne avesse viste passate tante da far arrossire una legione di puttanieri, non riusciva a trattenere, lei sì, un sincero stupore. Delle ragioni in tutte quelle sguanate dovevano esserci, perché se un matto come l'imperatore era rimasto fuori da lì, allora era chiaro che le cose non funzionavano. Però aveva forza, si era fatto dare le chiavi, tutte, e aveva aperto i cancelli dei gabbioni, tutti. Si era messo a scricchiare come quel selvaggio che era, insomma erano schizzati fuori subito. Rob e Cole, lezzosi e sciancati, saltabeccavano come quaglie lungo il corridoio e verso l'uscita, che le palandre cagate si vedevano a leghe. Dave però non se la dava per inteso, s'era attaccato alle sbarre dei gabbioni e sprolava che uscissero fuori, che il momento era giunto, la giustizia è arrivata. Il custode frignava, chiedeva pietà, strillava che era pericoloso. Circondato dai Soma del capo degli indiani di Londra, più che piagnucolare non poteva. I picchiatelli sembravano impauriti. Qualcuno, seminudo, s'affacciava di là dalle sbarre, ma senza convinzione. Nessuno s'era precipitato verso il portone d'uscita. Fu allora che Betty capì la parte che aveva in commedia. Faticò a credere ai suoi snicchi. Quel poldo scragnato le stava dicendo di tirar fuori la mercanzia e cominciare lo spettacolo. Sì, proprio sbattere in mostra le minne e farci quei giochi che le riuscivano così bene a Tottenham. Era proprio pazzo. Intanto tutti i malcichi della ganga si erano voltati all'occhiarla e per le biffe che avevano non era facile distinguerli dagli altri. Che merdaio! Betty rivolse a tutti una smorfia disgustosa e poi, cosa doveva fare? Diede inizio al suo numero, che tanto gli ubriaconi lezzosi delle stamberghe di Soho non erano certo meglio. bastava fare finta di stare da occhio solo a sguanare e fare bisboccia. Che poi non era mica la danza di Salomè quella che faceva. Erano solo quelle porcate con le minne che arrazzavano tanto i poldi rattusi. Palparsele, muoverle, scrollarle, portarle alla bocca e passarci sopra la lingua. Le solite sguanate. L'imperatore fece centro. Gli scoppiati vennero fuori dai gabbioni quasi in file ordinate, mentre il Mohawk di Londra faceva cenno a Betty di arretrare verso l'uscita. L'imperatore aveva brancato una torcia e mentre il lungo corridoio si riempiva, indirizzava il gregge come un pastore. Alzava il tono della ciangotta, li spingeva a prendersi la libertà, ma erano le minne enormi di Betty il segreto dell'esodo da Betlemme. Ma guarda che storiaccia porca, c'era da avere paura a fare il verme da esca per quel branco di cefali andate a male che la seguiva come un cucciolo. Gesù, nerchie di tutte le fogge e misure, staccate dalle figure dei loro padroni, rette da granfi e giganti. Gesù, questo vedeva, da non crederci. Il portone di Betlemme si spalancò su Londra.